facciamo, fai con me, fai, Drago con me, con me, Drago tutte con cose. Me. Ma me mi mo mu. Dai. Ma me mi mo mu. Ma me, non è che devi fare i tenores sardi, devi fare, devi scaldare la voce. Ma me mi mo mu. Facciamo solo oggi, dai, levati, via. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago, che lo faccio io oggi perché Drago c'ha una voce impietosa, vero Drago? Fai sì o no con la testa? Sì, ha fatto di sì. Buonasera da quel maschiaccio di Luisella Costamagna. Da la femminuccia di Luca Teresa non sta bene, no? No, vabbè. Buonasera a tutti, benvenuti in onda da Luca Teresa. E da Luisella Costamagna, oggi quasi... Sì, sono un po' colorata. Guai a te a prendermi il posto. Buonasera da quel babà di Luca Telese. È l'ambizione della mia vita rubare tutte e due le poltrone di questo studio. Beh, riusciresti ad occuparle tutte e due insieme? Beh, forse, sì, per doti fisiche. Parliamo oggi di Guia Soncini, credo, che sul blog dell'Unità ha descritto il bambino Luca Telese come un ex bambino grasso. Un ex bambino grasso che non ha ancora superato i traumi infantili e che non li supererà mai, soprattutto in presenza di una bella donna intelligente come era la sua collega Costamagna nel programma In Onda, che lui si è premurato di far mandare via e di prendersi un compare maschietto. E ora K dice: ma questa è un'accusa di maschilismo e misoginia. E Drago dice: sì, ma arriva da una donna, quindi vale la metà. Diamoci di gomito. Allora, posso rientrare? Sì, per favore. Bisogna dedurre quindi che la signora Soncini, Guia Soncini, che si distingue da sempre per un birignao un po' glossolalico. Birignao glossolalico, che vuol dire da ragazzina un po' dislessica, così che fa un po' finta di essere sgrammaticata, che io, comincia le frasi con che io vorrei, robe. Ecco, okay. Dobbiamo arguire che la signora Soncini, alla signora Soncini anzi non piacciono tanto gli uomini cicciotti e un po' complessati, e non sarà mica colpa loro. Chissà, per esempio, che rapporto ha la signora Soncini con la bilancia. Diamoci di gomito, eh. E vabbè, scherzi a parte, non essere accusati di maschilismo e misoginia da una donna oggi è praticamente impossibile. Impossibile. Impossibile. Non è che lo diciamo con fierezza, ma è la verità. Vero, Laura Faggin? Ecco, Laura Faggin conferma da dietro il vetro facendo no con la testa. Ecco, vabbè, comunque Telese conferma facendo no, è bello, eh. Sì. Telese è un bel personaggio, sì, perché nel senso che adesso con Porro è effettivamente molto più a suo agio. Sì. Può giocare meglio a chi ce l'ha più lungo. Sì. Perché con la Costamagna era difficile, Sì, vinceva però... la Costamagna. Ma con lei la sua smania era di prevalere. La smania, cosa hai detto? La smania della Costamagna, smania di Telese di prevalere, lì si manifestava nel maschilismo, diciamo più gretto. E in 3 minuti dall'inizio del programma, Telese era già lì che prendeva in giro la Costamagna per le mestruazioni. Ma cosa dici? Ma il livello era quello, magari non per quello, però tu, cioè, diceva tu hai delle belle gambe, delle belle tette. Era sempre lì a parlare delle gambe, delle tette della Costamagna. Vabbè, ma cosa doveva fare? Un uomo è sempre un uomo. Beh, c'era lì la donna con le tette e le gambe. Quello è vero. Chiuso il discorso, sì. Scusa. Chiedo asilo. E ora, bambini, ricreazione. Audio diario del bambino Alberto. Oggi, sul mio diario, non ho niente da scrivere, perché non ho fatto niente. Mi sono svegliato e la mamma mi ha lavato. Poi mi ha vestito, caricato in macchina e portato all'asilo. Poi all'asilo sono rimasto immobile al mio posto a fissare un punto imprecisato davanti a me. Poi è arrivata la ricreazione e non mi sono nemmeno spostato in cortile, che tanto fa freddo. Quando ci sono giornate così, non capisco a che cosa serve tenere un diario. Il brutto è che le giornate così sono tante. Più o meno sempre. E allora uno si chiede, ma a che cosa serve stare al mondo? Lo chiedo al papà e lui mi risponde che stare al mondo serve ad affermare la propria coscienza di classe. Lo chiedo alla mamma e lei mi risponde che stare al mondo serve ad affermare la propria coscienza di genere. Di genere? Ma di genere cosa? Allora la domanda, alla fine, rimane senza risposta. A che cosa serve stare al mondo? Non conto niente. Fanno tutto i grandi. L'unica speranza... è che un giorno, per miracolo, smetterò di essere un bambino che non sa fare niente e diventerò un grande come mio papà, che non sa fare niente lo stesso, ma però almeno è grande. E se vuole non mangia a tavola ma davanti alla TV. E delle volte non si fa nemmeno la doccia, anche se ne avrebbe bisogno. Borse in disfatta. Che dire, altro che disfatta. Oggi come oggi gli economisti, anche quelli più fantasiosi, non riescono a immaginarsi quel che succederà da qui a poco, perché ci sono scenari assolutamente imprevedibili. Vabbè, ma tanto i soldi, ma chi se ne frega, noi ci siamo già immaginati un futuro senza soldi. I soldi sono solo un simbolo, si può fare benissimo a meno dei soldi. Infatti, rallegratevi se avete finito i soldi, sì. Però se in compenso avete una bella soffitta piena di cianfrusaglie, ecco. Rallegratevi, perché proprio quelle cianfrusaglie potrebbero chissà che... Drago, vai al dunque, che non sai cosa stai potrebbero dicendo. Rappresentare la vostra via di salvezza qui al mercatino globale. È quella, nuova economia, il baratto. E oggi vanno forti gli scambi. Scambi tipo, se mi fai un massaggio shiatsu, ti taglio l'erba in giardino. Il baratto, capito? Ma anche di beni non materiali, di servizi. Avercelo il giardino adesso. Comunque, sui servizi è necessaria una riflessione profonda, perché i guai per l'Italia e per l'Occidente in generale sono cominciati quando abbiamo smesso di produrre manufatti e ci siamo messi a commerciare in servizi, e cioè, tranne che per rare eccezioni, in fuffa. È la fuffa del servizio. Comunque terziario. Il terziario avanzato qui sta perdendo colpi, mentre si sta imponendo il terziario arretrato, che è quello gratis. Quindi, donne e uomini d'Italia, andate a cercare dove avete arrotolato e nascosto i vostri diplomi in cucina macrobiotica, medicine alternative, reiki, taglio e cucito, e perché no, anche quello in tango, perché tutto fa brodo ormai. Potrete fare gli insegnanti. Io non ho mai frequentato un corso in vita mia. Nemmeno io. E allora siamo fregati. Beh, però dai, sappiamo fare un sacco di cose strane, no? Il tango no. Vabbè, tipo cosa? Sappiamo fare tipo cantare, dire cazzate. Vabbè, quello siamo a posto. Commercialist inner jokes, com'era? Questa cosa delle barzellette dei commercialisti, che sembrava fallita, in realtà si è ripresa, perché quando mi sono lamentato, ci siamo lamentati sul fatto che i commercialisti non hanno senso dell'umorismo, si è scatenata l'onda e l'orda dei commercialisti che hanno mandato le loro barzellette. Noi abbiamo salvata una, un po' lunga, però la facciamo un po' in fretta. Allora, un funzionario ce la manda, il dottor Maurizio Bocchiega, che ci propone questa barzelletta tra l'ebraico e il commercialistico. Allora, un funzionario dell'Agenzia delle Entrate si reca presso una sinagoga per effettuare un accertamento generale relativo agli ultimi 5 esercizi sociali. Alla fine del controllo, trovando tutto perfettamente in regola, pensa tra sé che non può tornare in ufficio a mani vuote senza aver trovata la benché minima irregolarità. Allora chiede al commercialista ebreo, immediatamente chiamato dal contabile della sinagoga per assistere alla verifica, e chiede: so che si utilizzano parecchie candele durante le cerimonie, come smaltite la cera che rimane? Il commercialista risponde: vede, si raccoglie la cera in queste apposite casse, si invia la cera rimasta al fornitore delle candele, che ricicla quanto rimasto. Il fornitore poi ci rispedisce delle nuove candele, come può vedere dai DDT e dalle fatture regolarmente registrate e numerate. Il funzionario è disperato, ha ricevuto perentorie istruzioni dal suo capo team, deve raggiungere gli obiettivi stabiliti e deve per forza emettere un processo verbale di constatazione. Allora chiede: e quando fate la circoncisione, come riciclate la pelle che tagliate ai vostri adepti? Il commercialista a questa domanda resta un attimo perplesso, non sapendo cosa rispondere. Consulta il frizzera, che deve essere una specie di prontuario fiscale, fa una veloce ricerca sulle banche dati del proprio notebook e poi lancia un'occhiata interlocutoria al contabile della sinagoga per trovare conforto. E il contabile: guardi, mettiamo la pelle in queste casse, la mandiamo con regolare DDT all'Agenzia delle Entrate e loro ogni tanto ci mandano uno come lei. Questo è molto divertente. Cioè? Con la pelle del fa non una testa di finiva con testa di io ho sostituito con uno come lei. Così fa molto più ridere, in effetti. Commercialist in jokes. Ed è venerdì, questi commercialisti non ci hanno fatto ridere nemmeno stavolta. Speriamo la prossima. Guarda, tantissimo. Ringraziamo e salutiamo Carmelo Lauricella, Laura Faggin, Tommaso Varvello, Guido Bertolotti, Alberto Caserini, tutta Radio 24. Ci risentiamo da lunedì alle 16.45. Chiedo asilo a radio24.it.